Ambiente e Salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Ambiente e Salute da parte di Antonio Ceccato. Questa volta parliamo di un altro argomento di grande attualità, il PFAS, che sembra un acronimo tratto da una serie TV americana, in realtà è un qualcosa di molto più serio. E ne parliamo con il dottor Francesco Cavasin, che è di nuovo con noi. Allora, perché parlare del PFAS innanzitutto, dottore? Grazie Antonio e grazie sempre al Blu Radio Veneto per l'occasione che ci viene fornita per parlare di uno degli argomenti scottanti di questo periodo e che rappresenta un quadro di inquinamento ambientale che abbiamo in qualche modo già avuto occasione di trattare la volta scorsa quando abbiamo parlato dei pesticidi. Perché parlare delle sostanze per fluoroalchiliche? Ecco l'acronimo dei PFAS. Sono delle sostanze che sono ubiquitarie e che stanno inquinando in maniera molto pesante una parte del nostro territorio, anche se, come si è e si sa, sono ubiquitariamente distribuite. Che cosa sono quindi questi perfluoroacrilico, eccetera, eccetera? Sono delle sostanze e prodotti industriali che hanno delle proprietà piuttosto importanti, che sono idrorepellenti e liporepellenti, vale a dire in sostanza vengono utilizzate per una miriade per la costruzione di diversi tessuti e anche per diversi materiali che si vanno proprio a caratterizzare per queste loro proprietà, quindi dell'idrorepellenza e dell'iporepellenza, cioè allontanano l'acqua e i lipidi, quindi vengono a trovarsi in tappeti, nelle pelli, per esempio nella conciatura delle pelli, nei contenitori che si utilizzano per contenere i cibi, soprattutto facciamo esempio a quelli comunemente utilizzati nei fast food, e possiamo anche trovarli, si sono presenti anche in alcuni tessuti che vengono grandemente utilizzati nel comune utilizzo che si fa di tutti i giorni, come il Gore-Tex e il Teflon. Quindi sono dei tessuti che, per essere tali e per avere le note caratteristiche, esatto, contengono queste sostanze chimiche che sono, come si diceva prima, ormai presenti dappertutto. Quindi il bioaccumulo in questo caso presumo sia anche nell'uomo, o sbaglio? Certamente, come si diceva, sono sostanze che sono distribuite ubiquitariamente e si trovano dappertutto, e purtroppo ci sono delle realtà dove queste sostanze sono maggiormente presenti proprio perché le località coincidono con le sedi industriali dove questi vengono prodotti e dove probabilmente c'è anche nelle realtà dove non vi è un controllo capillare della qualità delle acque o comunque dei cibi, questi possono essere sicuramente trovati in concentrazioni di un certo interesse proprio per non solo per la salute umana ma anche per gli animali e per le piante. Si bioaccumulano proprio perché hanno questa proprietà di essere idrofilici e quindi corrono e si trovano nelle acque soprattutto, ma possono trovarsi anche nell'atmosfera, ci sono dei precursori e in sostanza vengono assunti sia dal suolo attraverso le acque, attraverso i cibi che delle acque si servono e poi alla fin fine dai consumatori, quindi dagli animali, da quelli di, diciamo, più della scala più bassa fino all'uomo che è all'apice e quindi ecco il perché diceva prima Antonio il bioaccumulo, cioè un accumulo proprio biologico che arriva ad essere assolutamente di un certo rilievo, di una certa importanza, soprattutto l'uomo, perché è all'apice di questa catena alimentare, possiamo dirlo, sì. E nell'uomo in particolare, perché questo presumo sia importante, dove si accumulano? Dunque, entrano, come si diceva, attraverso sia l'aria, l'acqua, quindi attraverso gli alimenti, viaggiano nel sangue trasportati dalle proteine, da alcune carrie cosiddetti, e vengono poi a depositarsi in vari organi. I più importanti: il fegato, i reni, il cervello e nelle ghiandole endocrine, soprattutto nel maschio, a livello dell'apparato riproduttivo e quindi ai testicoli. E quindi chiaramente una rilevanza non, come dire, marginale su l'insorgenza di tante malattie, immagino. Certo, difatti ci sono tante segnalazioni in letteratura che mettono in relazione la presenza di queste sostanze con dei danni alla salute, diretti e indiretti, soprattutto indiretti, perché il loro effetto avviene proprio con l'aumentarsi della loro concentrazione proprio nell'organismo umano. Possono dare queste sostanze una tossicità acuta? Ecco, come si diceva, tossicità acuta è un po' difficile riscontrarla in queste sostanze. È più facile invece che si parli di una tossicità cronica, cioè proprio dovuto al loro accumulo, perché non sono biodegradabili, quindi sono sostanze che si bioaccumulano e quindi raggiungono concentrazioni piuttosto importanti quando è passato diverso tempo. Quindi, se vogliamo, anche un qualcosa di più grave, perché da profano dico tossicità acuta è un qualcosa che possa eventualmente essere come rientrare, se vogliamo. La tossicità cronica è evidentemente una sedimentazione, o sbaglio? Perfetto, cioè questo è proprio, nella tossicità acuta è anche più facile riscontrare eventualmente il nesso causa-effetto, perché si può stabilire direttamente da dove proviene l'aggressione. Nella tossicità cronica invece gli effetti avvengono nel tempo, e per risalire effettivamente alla causa non è facile, perché possono agire anche altre sostanze che possono interferire o comunque addirittura sinergizzare l'effetto di queste, e quindi alla fine produrre i danni alla salute. Perfetto, allora ci fermiamo un attimo per il brano musicale e poi proseguiamo. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. I'm beyond the archetype. I won't just conform. No matter how you shake my core. 'Cause my roots, they run deep. Oh, oh, yeah, so little faith. Just fight it and be transformed. Ed eccoci qui di nuovo in studio con il dottor Francesco Cavasin, con il quale parliamo appunto del PFAS, di queste sostanze particolarmente nocive, se vogliamo. E chiediamo a lui se ci sono stati casi di tossicità sulle popolazioni, quindi qualcosa di endemico. Come si diceva, essendo sostanze prodotte dall'industria chimica, e non solo, ma anche dall'industria tessili, dalle concerie o comunque da impianti che hanno la loro proprio linea di produzione, proprio la presenza di queste sostanze, e abbiamo storicamente delle realtà in cui si sono verificate delle contaminazioni ambientali, e dobbiamo pensare a dei casi che sono diventati anche oggetto di studio da parte degli scienziati e comunque dei ricercatori che vogliono capire molto di più dell'effetto di queste sostanze perfluoroalchiliche sulla salute umana, e non solo umana ma anche sulla flora e sulla fauna. E mi riferisco al 2007, a un episodio che finora è quello di consistenza anche numerica piuttosto importante, che è quello che è avvenuto negli Stati Uniti, in Virginia, dove una delle industrie chimiche più importanti, come la DuPont, aveva proprio una linea di produzione di queste sostanze, da cui poi è avvenuto un incidente industriale con una contaminazione di un territorio piuttosto vasto di 70.000 abitanti. E su questa, diciamo, questo studio fatto su questa contaminazione ambientale, che naturalmente abbiamo dei dati di letteratura che ci indicano questi rapporti stretti tra, certo, queste sostanze e la salute. A questo poi hanno fatto seguito anche altre situazioni di segnalazione, sempre relative a insediamenti industriali che producono queste sostanze, e non ultima è la nostra situazione, quella concentrata sulla Valle del Chiampo nel Vicentino, dove diversi comuni, circa una trentina, sono stati e lo sono ancora adesso esposti per anni alla contaminazione delle falde acquifere da queste sostanze, dalle sostanze perfluoroalchiliche, e che sono utilizzate in quell'area, in quella realtà geografica, soprattutto dalle industrie delle concerie, del tessile, certo, e poi anche di industrie che si stanno specializzando sempre di più nella produzione di queste sostanze. Ci sono delle concentrazioni limite, perché viene da chiedersi spontaneamente anche da profani, per tale sostanze? Questa è l'altra questione che si sta molto dibattendo, perché è ovvio che se guardiamo i dati della letteratura, i dati della ricerca scientifica, ci dicono che queste sostanze, i perfluoroalchiliche, sono cancerogeni di seconda classe, vengono di lì posizionate. Allora è ovvio che per queste sostanze la prevenzione vorrebbe che non esistessero, quindi non si potrebbe più di tanto parlare di limiti di concentrazione, ma è ovvio che per in qualche modo conciliare quella che è la loro produzione, il loro utilizzo che è così esteso, e il loro impatto sulla salute, è bene che quindi si siano in qualche modo individuate delle soglie che è giusto tenere a mente, proprio per evitare che ci siano dei danni importanti sulla salute degli esseri umani. Certo. E quindi questi valori limite sono valori che vengono diciamo di volta in volta modificati a seconda delle possibilità tecnologiche che abbiamo di andare a individuare la loro concentrazione nelle acque o comunque negli alimenti. Certo, lo stato dell'arte della tecnologia, diciamo. Ci dice, sì, effettivamente quali possono essere questi valori, diciamo, soglia o limite, oltre i quali non si dovrebbe andare, proprio per non avere un effetto diretto o comunque importante sulla salute dell'essere umano. Certo, sempre tenendo presente, credo, il principio di precauzione, o sbaglio? Esattamente, perché è questo che si diceva prima. Per il principio di precauzione che poi è anche il consiglio finale che tutte le istituzioni danno in questo caso di contaminazione così su vasta scala, è quella di chiedere alle industrie di fare uno sforzo enorme, alla ricerca in generale, per superare la ricerca e quindi di andare oltre all'individuazione di sostanze o comunque di elementi chimici che siano in qualche modo un superamento dei limiti che queste sostanze presentano. Certo. E come si intende affrontare il problema, intendo a livello istituzionale? La Regione Veneto presa carico di questa situazione di contaminazione dopo una serie di segnalazioni che sono venute anche da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e di Medici per l'Ambiente, nell'ambito di quelle che sono le sue attività di monitoraggio della salubrità delle acque, ha evidenziato che queste concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche nelle acque di quell'area che si diceva prima aveva bisogno di essere ulteriormente indagata e valutata proprio in termini di quelli che sono gli effetti sulla salute della popolazione, e quindi hanno messo in atto un percorso di screening di popolazione, uno che partirà, è già partito per quanto riguarda gli alimenti, alcuni alimenti, mentre sull'uomo è stabilito che ci saranno per 10 anni uno screening di popolazione che riguarderà una popolazione piuttosto importante, circa 300.000 abitanti, che verranno sottoposti a degli esami biomorali periodici proprio per valutare la presenza di queste sostanze e eventualmente la registrazione degli effetti sulla salute di queste sostanze. Ok, quali provvedimenti, altri provvedimenti oltre a questo? Beh, è ovvio che in questo momento che stiamo parlando di un'emergenza è utile andare subito alla salubrificazione delle zone, delle aree dove questa concentrazione è stata riscontrata così elevata. Quindi la salubrità delle acque, quindi andare subito alla messa in sicurezza degli acquedotti, esatto. E naturalmente cercare in collaborazione con le industrie del settore di valutare eventualmente la ricerca su altre sostanze o comunque su altri componenti che non siano così impattanti come lo sono questi. Perfetto, ringraziamo il dottor Cavasin per questa dotta disquisizione e vi ricordiamo la possibilità di ascolto e di scaricare il podcast della trasmissione. Per suggerimenti e richieste è sempre info@bluradioveneto.it. Alla prossima trasmissione. Ambiente e salute, in collaborazione con ISDE Italia, Associazione Medici per l'Ambiente.